Buongiorno. Comincia il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno. Oh. Ma che il maestro ancora non è arrivato? Sì, è arrivato, ma sta preparando i dischi per stasera. Dai, comincia un po' tu. E che? Io non so buono a fa niente qua. Come? Oh! Chiamalo un po'. Vabbè, aspetta. Gigi? Eh? Dai, vieni un po' qua. Senza dita non si comincia. Sì, ho capito. Buongiorno a tutti. Questo è il cammino di me medesimo D'Agostino. Oggi cammineremo ovunque. Percorreremo sentieri molto cupi e ritmati e altri molto più melodici, ma altrettanto ritmati. Ascolta Gigi che te tantono, anche il suono è buono. Vai di cassa. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Oh! Che sta suonando Gigi D'Agostino? Cammino di Gigi D'Agostino presenta Halloween Elettronico 2006, quinta edizione. Musica e ritmi ideati, creati e suonati da Gigi D'Agostino. Halloween Elettronico 2006, presso il campo sportivo di Ragna, Canton Ticino, Svizzera. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Ma ciao proprio.

Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Il 28 ottobre del 1967 nasce Julia Roberts, attrice. E danzatori, chiamate i vostri genitori, sverti va, qui c'è musica che pesta, suona il maestro e roba onesta. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. Sì, dai. Non è che siamo qui a snocciolare, questa società sarebbe impossibile senza alleati. Quindi grazie a tutti gli ascoltatori perché ci permettono di continuare a suonare e a danzare. Grazie. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. che sentieri percorriamo tutti insieme ogni giorno alle 18. Il cammino di Gigi D'Agostino, la radio a colori. Why am I leading a lonely life? Can you feel the way I'm so tired? Do you need me to say goodbye? Don't forget about me tonight, 'cause my heart is not going to die. Just the love I could not deny. You will listen to me for. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. La pazzetia è completamente scaricata, scaricata, scaricata. La pazzetia è completamente scaricata, scaricata, scaricata. La pazzetia è completamente scaricata, la scaricata. La pazzetia è completamente scaricata, scaricata, scaricata. La pazzetia è completamente scaricata, scaricata. Messaggino. Il cammino di Gigi D'Agostino. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Appiccia sta radio, ti arriva in destro. Alle ore 18 suona il maestro. We'll be right back. continuo un altro modo di fare musica. Maestro in principino, lui è Gigi D'Agostino. Il 28 ottobre del 1955 nasce Bill Gates, imprenditore statunitense. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Il cammino di Gigi D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia! Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino, la sua musica prende vita. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino, la sua musica prende vita. Halloween elettronico 2006, il nostro raduno di quest'anno in Svizzera, ma a pochissimi chilometri dalla dogana, quindi vicinissimo all'Italia. E dagli un po' tutte le, cioè, in forma, ragazza, in forma. Il cammino di Gigi D'Agostino presenta Halloween elettronico 2006, quinta edizione. Musica e ritmi ideati, creati e suonati da Gigi D'Agostino. Halloween elettronico 2006, presso il campo sportivo di Ragna, Canton Ticino, Svizzera. È un evento, già lo sento.

Apostolo Zeno. Spettacolo, frate. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. D'Agostino, se può ti informa durante il cammino. Per maggiori informazioni sulle sue serate e sui suoi brani, clicca sui tasti, ma usa le mani. www.gigidagostino.com. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Like a This is the way that it has to be. You and me. Like a sound suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino presenta Halloween elettronico 2006 presso il campo sportivo di Ragna, Canton Ticino, Svizzera. Fatti un caffè, ma usa la moca. Gigi D'Agostino, reparto pelle d'oca. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Questa sera, cioè dopo, più tardi, si balla a colpi di martello in Austria. Questa sera, sabato, disco Fire and Ice, Solden, Austria. Cominciamo ad andare? Dai. Volete mandare i vostri sms, il numero è il seguente: 333 64 67 662. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione, potete far sentire la vostra voce. Ma regà, non giochiamo. M2O, musica allo stato puro. Il 28 ottobre del 1969 nasce Ben Harper, cantante. Let the rain come through, sunshine. Let the dark turn into light. I don't wanna be a bad or a meaningless name. Let the sun is turned. radio a colori. About you.